dei possibili momenti di crisi che si possono verificare in una coppia, che è forse uno di quelli più brutti da vivere, cioè quando ci si trova di fronte all'infrangersi dell'idea del figlio perfetto. Uno dei progetti principali quando si forma una coppia è quello di appunto avere dei figli. Ci si immagina questi figli bellissimi che avranno successo, saranno sanissimi. E quando ci si trova di fronte invece alla concretizzazione del fatto che questo può non avvenire, come è successo a me e a mio marito, quando è arrivata Benedetta che a 5 mesi, l'avete vista, ha la sindrome di Down. Noi, diciamo, se io posso permettermi, diciamo, di mettere a servizio di questa discussione la nostra esperienza, noi abbiamo imparato molto da Benedetta in questi 5 mesi. Abbiamo imparato a ricostruire il nostro ruolo di genitori che credevamo di conoscere bene dopo aver avuto altri 2 figli. Abbiamo capito che i genitori devono prima di tutto aiutare i propri figli, appunto allontanandosi da quest'idea di perfezione che ci portiamo dentro, e dobbiamo appunto aiutarli a esprimere al massimo le loro potenzialità, qualsiasi esse siano. E appunto che deve essere questo il ruolo principale, dobbiamo spogliarci di tutto il resto e mettere al loro servizio le nostre capacità per aiutarli a vivere in qualsiasi modo, aspettandoci il meglio di quello che possono avere, non il meglio in assoluto. E lei ha dato tanto anche a suo fratello e a sua sorella, in particolare, diciamo, al più grande, che ha 8 anni, quindi è in grado magari di capire qualcosa, e ce ne siamo accorti quando la sua maestra mi ha raccontato che lui era riuscito ad entrare in comunicazione con il suo compagnetto che ha dei problemi di autismo, ed era riuscito, con una delicatezza che l'aveva commossa, ad aiutarlo, perché aveva capito che questo bambino aveva qualcosa di diverso da lui, ma che non necessariamente aveva niente di meno di lui. Quindi devo dire che se questa esperienza può essere utile in qualche modo, io voglio farla come un'esperienza di gioia. Però è chiaro che molte coppie appunto non riescono a viverla così, non sono così fortunate come siamo stati noi, e la mia domanda è appunto questa, cioè come aiutarle, oltre che con l'esperienza propria, come diceva prima la professoressa Binetti, oltre che comunicando l'esperienza, come aiutarle a oltrepassare quella soglia del dolore, senza romperla la coppia, no? Ma facendosene arricchire. Tutto l'affetto, tutta la cosa. Però la cosa di cui più ti ringraziamo è di averla portata qui, Benedetta, perché bisogna vederla, questa bambina che è tutto un sorriso, a parte essere vestita come un confetto tutto di rosa, no. Ma la cosa che sorprende di più di questa bambina è veramente una straordinaria capacità di sorridere, no? La cosa che colpisce di più è questa gioia di vivere che comunque lei esprime in questa sua anche, come dire, sguardo benevolo sul mondo, perché sorride a tutti, no? Cioè sorride anche qualunque cosa uno dica, effettivamente c'è questa, come dire, capacità di credere che il mondo è dalla sua parte. Questa è la sua ricchezza in questo momento. E ti ringraziamo anche di aver messo l'accento su come questo già si stia convertendo. Tu non potrai fare mai tanto per aiutare tuo figlio a crescere sul fronte della solidarietà, a crescere sul fronte della, come dire, della generosità, come quello che sta facendo sua sorella adesso, perché sua sorella effettivamente ne tocca le corde del cuore e tira fuori da lui questo esempio che tu hai descritto molto bene, che è la percezione che nella diversità dell'altro bisogna sapersi porre semplicemente in un atto, in un gesto concreto di servizio, di collaborazione e di inclusione. Quindi bene, il suggerimento è un suggerimento molto semplice, tu sai che le migliori iniziative che siano nate a tutela e a difesa di questi bambini l'hanno promossa i loro genitori. Quindi l'unica cosa che tu puoi fare, sicuramente sai perfettamente che c'è una cosa che si chiama Vivi Down, ci sono moltissime esperienze di questo tipo, alcune funzionano meglio, altre funzionano meno bene, ma tutte funzionano sempre e solo che ci sia gente capace di mettere il cuore, la comprensione, l'accoglienza e tutto quanto. Però è verissima la cosa drammatica che tu hai detto. È verissimo che ci sono molte coppie che davanti all'esperienza del dolore e della sofferenza semplicemente scoppiano. E siccome non è, questa guardate è la grandezza della donna, con tutto rispetto, siccome non è possibile, perché sarebbe totalmente, vuol dire, sarebbe proprio uccidere dal di dentro, no? Il cuore di una donna, di una madre che si allontanasse, viceversa invece è possibile che i padri si allontanino. Io vi racconto un piccolo episodio di una collega parlamentare che è tra l'altro una bellissima donna, anche di una bellezza, diciamo, visibile, no? Sempre sorridente, donna molto intelligente. Un giorno dico, fai queste stupidaggini che uno dice, e poi però scopri che in qualche modo il Signore ha permesso che tu dicessi una stupidaggine di questo genere per avere una risposta così intelligente e così saggia. Quindi un giorno questa collega si chiama Francesca. Dico, ma certo Francesca, vedendola sempre così contenta in un contesto che di contento c'è poco da avere, e dico, ma certo che evidentemente sei una persona brava, hai una forza interiore capace di proporre. E lei mi racconta questa storia, una persona di un partito diverso, quindi mi racconta che ha due figli gravemente handicappati e che al secondo figlio, quando è nato il primo figlio, il marito è rimasto così, ma quando è nato il secondo figlio lui gli ha detto, guarda, io proprio non ce la faccio, e se n'è andato, cioè se n'è andato via, se n'è andato all'estero, ma via, e non le manda nulla per il mantenimento di questi figli, che è un mantenimento anche ovviamente costoso e complesso, soprattutto perché è costoso e complessa la relazione di assistenza, la quantità del tempo. Abbiamo fatto insieme la battaglia perché fosse possibile scaricare dalle tasse i costi delle badanti, perché in questo caso diventano, avere un'assistenza continua ha un costo rilevante, e fosse possibile, vabbè, questo per farti un esempio, poi dopo cerchi di tradurre anche in soluzioni per gli altri quelle che sono le percezioni della complessità del problema. Ma quello che è vero è questa situazione. Forse qualcuno di voi ha visto anche un bel film che è tratto dal romanzo di Baricco, non di Baricco, scusatemi, di Pontigia. Il film è Le chiavi di casa. Sì. A un certo punto voi trovate che questo papà accompagna questo figlio a un controllo, peraltro trova lì questa bellissima attrice che adesso è stata anche al Festival di Roma con un film importante sulla maternità, e lei gli dice, guarda, i papà scompaiono sempre quando c'è il lavoro sporco da fare, e il lavoro sporco da fare è il lavoro della presa in carico del bambino con problemi e con difficoltà. Cioè, senza che questo sia davvero nessuna accusa per nessuno, ed è invece un riconoscimento alla forza della maternità, i padri spesso restano totalmente sgomenti e incapaci. Come succede a volte con i bambini piccoli, che finché non crescono un po' e non riescono a parlarci insieme, nemmeno li pigliano in considerazione, no? Davanti a un figlio che non capiscono, non riescono, come dire, a mobilitare il suo. Poi ci sono straordinarie eccezioni, sono sicura che tuo marito sarà una di queste, però voglio dire, è una verità, il che significa che la nostra responsabilità è quella di stare molto vicini ai genitori che hanno bambini in qualche modo portatori di handicap. Una delle mie battaglie più grosse, mi ricordo ancora nel lontano 72, è stata la battaglia per l'inserimento dei bambini portatori di handicap nelle scuole normali. Una delle battaglie che abbiamo fatto adesso è stata la battaglia per gli insegnanti di sostegno. Cioè, questi bambini hanno una serie di diritti che noi possiamo anche tutelare con la legge, con quello che vi pare, ma se il contesto dei genitori della classe non capisce quello che tu hai detto così bene, che non solo quel bambino fa bene a tuo figlio e tuo figlio è in grado di recepirlo, perché fa esperienza, e la fa un'esperienza affettiva, serena e costruttiva, anche grazie al clima di famiglia. Ma tutti, se quei genitori della classe non capiscono che questa è la migliore iniezione alla solidarietà, alla generosità che potrebbero fare con i loro figli, io non ti posso dire sii obbediente a me, sii gentile con me, fai dei servizi a me, perché sembrerebbe che sto facendo il Cicero pro Domomea. Però posso dirti sii generoso con lui, fatti carico di lui, con lui, dedica una parte del tempo a lui, gioca anche con lui. Lo posso fare perché in questo modo io mobilito risorse del cuore, di cui è possibile che poi ci sia un effetto boomerang, e che il cuore, reso più tenero, ammorbidito dall'esperienza della relazione di amicizia, restituisca in altro modo quella stessa generosità, con la stessa maturità, con la stessa cosa. Quindi io credo che intanto Benedetta è bellissima, e questo già è un punto importante. E intanto poi i bambini Down sono bambini noti per essere affettuosi, no, sono noti per essere bambini che hanno un grado di apprendimento per imitazione altissimo. Più sarà capace di stare con i fratelli, più avrà dei compagni adesso anche alla scuola, al nido, alla scuola materna, poi alle scuole, capaci di stimolarla, e più apprenderà. E più sarà fonte di gioia, di serenità e collante sociale molto forte. E tu puoi fare tutto questo con i genitori, ma tutti noi dobbiamo sapere che davanti a un'esperienza drammatica c'è bisogno di fare un prestito forte di amicizia, di solidarietà, di condivisione, perché è vero che davanti al dolore la tentazione della fuga c'è, ed è una tentazione concreta a cui noi possiamo soltanto cercare di mettere il limite con il nostro contributo di solidarietà personale. Grazie.